avanti. Bello. Buonasera. Buonasera. Chi sei? Tore, Gianni, chi sei? tu chi vuoi che sia? Quello che vuol dire che non conta niente. Ti potrei dire anche il nome di una nonna. Ma non credo che sia una nonna. Che Tore sono? No, attaccate adesso perché c'è un temporale che non ti dico niente. Adesso è uscito il sole. Però va avanti. Sì, e ogni tanto fa un acquazzone qua. Neanche 5 minuti ha finito di fare l'acquazzone. Ma ne ha fatto, era violenta proprio. Adesso invece c'è tutto il sole, ho visto il cielo stava sorridendo. E questi sono i temporali peggiori, qua hanno fatto fulmini, tuoni e chi ne ha più ne mette. Infatti adesso molti temporali ha messo oggi, ma chissà che passano, che siano gli ultimi che vai paghi su mesi. E contemporaneamente adesso si aspetta la propagazione, c'ho dei segnali di nuovo, sono francesi in FM, deve essere, ma mi sa che in questo periodo il francese è meglio non parlarci. E sul 23 poco fa c'erano i tedeschi, c'erano, in FM. Ciao, i tedeschi stavano uscendo, è forte pure. Perché stanno parlando di migrazione, capito? Quindi stasera sono riunione. Se sta parlando di guanti di cani, tutti canti. La Francia è sempre stata contraria a tutto, è sempre stata. Quindi sono loro che hanno chiuso le frontiere, è che le aprano loro le frontiere. Se vedrai che dopo sarà una cosa più veloce. Non siamo noi che non ospitiamo a nessuno, sono loro che non ospitano a nessuno, quindi si devono guardare in casa loro. Se ce la dobbiamo dire proprio tutta, diciamo che sono anche un pochettino fascisti, perché quello che stanno facendo a Ventimiglia, anche gli italiani, si chiama rastrellamento, perché anche se conoscono le persone che viaggiano, le chiedono a prescindere i documenti. Questo è un comportamento tipicamente che facevano l'SS e la Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi penso che stiano iniziando un pochettino ad andare oltre le righe anche loro. Ma già se ne stanno accorgendo che la gente non va più in Francia e né nulla, dall'Italia non sta partendo più nessuno perché gli aerei ci stanno viaggiando quasi vuoti per la Francia e si stanno lamentando, quindi l'hanno capito un po'. Sì, ma guarda, non è colpa dei francesi che come tutti diciamo sono presi in questa situazione, quindi non hanno colpa. La colpa è di quel mega somaro che c'è lì al presidente francese. Uno ce l'hanno dovuto mettere dentro che è stato così. Questo mi pare che facessi questo sia anche peggio. E poi dice fascisti agli altri. Pare che ultimamente, c'è che tratti vanno in coppia, ma ci sono anche delle altre cose, no, che vanno in coppia, che stanno in basso. Si è aggiunto anche lo spagnolo, loro che staravano alla gente, capito? E queste sono ormai le cose che non se discutono, che mettersi d'accordo tutti quanti e andare nei posti in Africa e negli altri posti, in Somalia e tutto quanto, per aiutarli. Più che altro si deve andare lì per non fare più immigrazione e fermarli da lì direttamente. Ah, a me pare che questa guerra sta continuando così e loro stanno scappando. Lo so. Il fatto che c'è un piccolo problemino, che guarda caso, in questi posti sono tutti, tipo il Senegal, la Nigeria, eccetera, sono zone in cui c'è una forte influenza francese, che è di tipo coloniale, perché hanno interessi particolari, tant'è vero che quando c'è qualcosa intervengono militarmente sempre. Quindi, capito, dietro tutto questo specie di teatro a chi offende di più, ci hanno interessi loro. Infatti, ma io dico, io cioè delle cose, metti un po' di controlli e cose, aiutarli specialmente in Africa più di tutti, e non tanto la Nigeria ma l'Africa. Ma non c'è la volontà, sono lontani, non deve fare niente. Finché c'è l'Italia si pregrattava, andava bene a tutti. No, io sto pensando invece a un'altra cosa, che qualcuno che c'era prima, in cambio di facilitazioni sul deficit, non abbia detto, ecco, fammeli vedere, tu sistemami un pochettino per regalare 80 euro qua e là, eccetera, e poi già mi arrangio io con i migranti. Speriamo che non esca fuori questa cosa, perché sennò sarebbe gravissimo. E ti pare che lo fanno uscire fuori questa cosa, ma per me è tutto un blesso. E comunque c'era la festa dell'onestà, hanno intervistato tante persone che erano lì alla festa, e non penso che fossero tutti, cioè erano tutti del PD, perché chi fa quelle feste dell'unità di norma sono del PD, anche perché era una festa del PD. Cinque le hanno intervistato e cinque hanno detto che Salvini c'ha ragione, quindi anche chi c'era del PD c'è rimasto un po' male. E ormai il PD ci può dare tutto a una parte, ci può dare, adesso c'è il 5 Stelle Lega che comandano i Zoelli e hanno chiuso le frontiere, quindi hanno invaso e hanno fatto entrare più nessuno. Beh, se questi si comportano in questo modo, poi non si riesce a distinguere tra quelli che vengono, che scappano dalle guerre, e quelli che vengono in cerca di chissà che cosa, o vengono i tunisini, che di lì non c'è nessuna guerra, e se vogliamo spesso sono anche protagonisti di cose non tanto belle. Quindi questa situazione vorrebbe anche un po' capita. Ma il fatto è che i tunisini si tengono 2-3 giorni e poi li rimandano tornare a casa loro. Abbiamo già constatato che da Cagliari con l'aereo, pure se ci costa un pochino, da Cagliari partono direttamente a Tunisi e li danno in mano ai poliziotti tunisini. Per carità, come diceva Vattali, è tutto sbagliato, se tutto da rifare. E il Giro d'Italia è tutto da rifare. No, ma guarda, già è così. Loro arrivano in barchini e tutto quanto. Ci arrivano che sono 20, 40, 50, li rimandano indietro, li rimandano. Li tengono 2-3 giorni e li rimandano indietro. Io ho visto io entrando all'aeroporto di Cagliari, una cinquantina ce n'era. Un disastro, è un disastro. Queste persone non sentono ragioni. E poi proprio da lì lavoro già ne hanno, in Tunisia, in cosa, perché insomma ci sono grossi investimenti anche dei cinesi, in Marocco, insomma lavoro, se vogliono fare qualcosa già lo trovano, sicuramente chi viene in Italia. Adesso non so se hai sentito, stanno stringendo anche su quelli che fanno vendite in spiaggia e compagnia cantante. Hanno un pochettino rotto. Sì, anche Gio Plattamona adesso hanno messo i vigili a controllo, se li trovano a grossa multa e per cosa, per non fare vendere questa roba che non è tutta contraffatta, tutta questa roba contraffatta e tutto quanto, tutto quello lì, non devono vendere più nulla in spiaggia. Ma poi è il fatto che se lo fanno italiano lo denunciano, perché diventa automaticamente un evasore fiscale, e lo fanno questi e va bene per tutti. La legge è quella, se la legge è quella è per tutti, non è solo per alcuni. Stiamo per vedere cosa combinano. Il fatto che a fare il permesso per vendere così a Cosio devi avere almeno una licenza, e a lasciarti la licenza già un po' garibaldino di lina, hai capito? Però l'italiano la licenza la pagano, si pagano anche le tasse, questi non lo puoi pagare nulla, e quindi così non va bene. Sì, ce n'è uno qua che va alla Conad, si mette lì e vende. Sono avvicinati i vigili e gli hanno chiesto il permesso, dice non ce n'ho io permesso. Ah, non ce n'hai, e ti metti qua a porta aperta. E gli ha dice oh no, io smonta tutto e vai via da qua, e gli hanno fatto smontare tutto, fino a che non se n'è andato, i vigili non se ne sono andati. Gli è andato bene, ha trovato i vigili, trovava la guardia di finanza, dove sequestrava tutto, e voleva anche sapere dove l'hanno presa la roba, perché questi hanno i magazzini, capite? E la finanza interessa quello, vedere dove hanno i magazzini, per andare a fare la visita poi. Se di vicino di roba sequestrata, no, ma sono magazzini cinesi. I cinesi già lo sanno dove c'hanno i magazzini, quindi ci vanno loro e ogni tanto controllano. E stanno mettendo a posto i cinesi, quindi si devono mettere a posto anche loro. E adesso se poi li vuoi trovare vai a Sassari Vecchio e li trovi subito i magazzini. Sì, e poi ho visto che prima sono adeguati, ogni negozio cinese si fa tutto il comprino, non devi più chiedere, quindi stanno molto molto più attenti, tanto in ogni caso vendono, quindi se vi interessa il guadagno ce l'hanno, cosa stai lì a mangiarti i casini per niente. Vediamo un po' come va a finire questa storia. E Gio Maria, cosa è spaventato dal temporale? Ah boh, è da poco fa che vi sto chiamando, adesso che entrano più tardi, tu? Adesso, tra poco devo guardare se poi è passata questa cosa, perché c'è un'antenna che non funziona. Un'antenna abbastanza grande. Adesso la butto giù e vedo cosa è successo. Ogni tanto tra cornacchie e roba del genere l'ho fatta apposta. E allora ti conviene fare in fretta. Ah, è passato il temporale. Qua è già passato, quindi non ce n'è altro, non penso, perché l'aria si è aperta, vedo il sole. Infatti anche qua sembrerebbe normalizzato. Adesso vediamo un po', questo fuori, tanto è di quelle a cosa, no? La caducola, facendo giù e vedo un po' cosa è successo di bello. E ieri tra l'altro c'era quel vento fortissimo, ho levato questo vento e non ti dico niente qua. E infatti c'è da ieri che questa antenna non c'è più. E allora ti conviene metterla a posto correndo, perché si è alzato un pochino il vento qua, però non molto, già lo vedo io dagli alberi, ti conviene mettertela a posto in fretta. Adesso ci sono un'occhiata. mi piace a me le mantenne, ma c'ho quella di riserva, se sono quelle molto lunghe, questa è lunga 80 metri, quindi bisogna darci un'occhiata, vediamo un po'. Cos'è? Dalla 27? No, è una multibanda. È una multibanda, copre 160 metri fino ai 28, autocostruita. C'ha tanti bracci, il più lungo è 80 metri. Poi dall'altra parte ne ha altre due da 40, poi altre due da 20 e così via. Multibanda, caspita, mettere quella lì qua, una di quelle qua, era rigido. No, infatti è su un traliccio, arriva fino a circa 12 metri d'altezza, e poi i bracci arrivano fino a terra, no? Tanto già c'è un spazio, qua c'è un ettaro, quindi più di tanto non rompo il scatto, ecco. E l'altra lo stesso, sono due da 80 metri, ma l'altra è una wind, c'è solo un cavo, uno corto e non molto lungo, e va bene, poi ci sono altre 50 metri verticali, e va così. Ma speriamo non sia un po' più grande. Tu più che canti un coso, un radioamatore, fatto. Infatti sono in una stazione da radioamatore. Il traliccio è molto grande, c'è un basamento di calcestruzzo che è in grado di reggere anche una gru da costruzione, mi hanno detto, perché hanno fatto il muratore di da cantiere, quindi. Andava. E io qua non ci ho posto di mettere nulla. Ci ho messo solo queste antenne, cosa mi voleva mettere Luca, mi voleva mettere. Ci mettiamo un coso, mettiamo. Oh, già buoni, no, che non è tutto mio. poi il discorso è metti sì, ma per che cosa? Perché non siamo più come 10-15 anni fa, adesso la maggior parte delle cose sono tutte in digitale, quindi c'è poco da ascoltare per chi non è attrezzato, capito? E niente, quindi c'è poco da fare, l'unico sistema per poter avere qualcosa attrezzato, ma cioè, ripeto, poco, e ormai siamo in fase di estinzione. Sì, no, ma cosa, io mi ascolto tramite computer, li ascolto parecchio, ne ascolto in tutte le frequenze che voglio, vado e li ascolto. Infatti fai prima così almeno non fai via a spendere soldi in antenne. Come le cose mi bastano queste due che c'ho e tu che faccio prima. Avanti ieri, come sono uscito in bici, ci sono le strade talmente disgraziate, talmente piene di buchi, che mi ha saltata la telecamera e l'ho perduta, le macchine. La foto del piglia buchi mi è saltata non era fissata bene, mi è partita la telecamera e ieri l'ho dovuta riordinare. E come hai fatto? Ma sopra in alto? No, era una telecamera per fare riprese che tengo sempre sul manubrio della bicicletta, sono piccolissime, no? quanto metà, meno di metà di un pacchetto di sigarette. E si utilizzano, diciamo, per avere qualcosa di interessante nel percorso, per vedere quando fai qualche caduta anche, e cose di questo genere. Invece evidentemente la nuova è attaccata bene, non è entrata bene nel supporto, fatto sta che non messo un accorto, la strada talmente brutta che non ho sentito neanche il rumore, mi è saltata, perduta. L'hai persa dal manubrio oppure l'hai persa così senza la sganciata direttamente? No, dal manubrio. L'attacco evidentemente non ha attaccato bene. E niente, persa. Comunque, dovrebbe arrivare questa settimana con la nuova, tanto non costa molto manuale. Ah, con le telecamere piccoline, quelle da costano poco anche. Sì, l'ho presa uguale perché è ottima, capito? Ho le prese formidabili. E quindi ho preso la stessa che adesso io ce l'ho già da un paio d'anni. È stata sempre un'ottima telecamera. E adesso ho trovato il modello, lo stanno prendendo ancora, l'ho preso, costa molto meno ovviamente perché ce ne sono di più sofisticate, anche io ne ho altre due, ma domani non me la porto perché fa in alluminio, costa subacquea eccetera, e quella costa 150 euro, quindi quella la lascio da parte perché fa anche foto da 16 mega ed è una 4K per i televisori anche di nuova generazione. Se prendevo quello mi seccava, quella là invece costa oramai molto molto meno e le fa solo in alta definizione, che va bene lo stesso, è in Full HD, però si vede benissimo, tutto quello, tu figurati che la uso anche quando ho il drone nel volo, ci attaccavo quella. Sì, io me ne volevo prendere una per portare a metterla nel coso, farmela in gommone anche. Ma devo prendere una, io l'altra che c'avevo si è rotta, si è staccato un pezzo di integrato, si è staccato e non ha funzionato più. Guarda, se ci sentiamo in questi giorni, qua ci sono una marea di fregature in giro purtroppo. Io ne ho preso questa perché ha la stessa marca di quella che ho perduto. E se ti interessa te lo dico qual è, prima la provo ovviamente se la qualità è la stessa e poi te lo dico perché ti danno tutto, anche gli accessori, l'unica cosa che ti devi comprare che è piuttosto cara è la schedina, no? L'SD. A quale già so dove prenderla? Infatti ne ho preso una da coso, da 36 giga, no 32 giga, e l'ho pagata 8 euro. Dimmi dopo l'hai presa perché ci vado subito, perché io l'ho dovuta prendere anche qua, ho preso solo quella. Devo prendere anche quella lì. La stamattina l'ho presa da Ocean, una da appena 16, mi è costata 11 euro, però è una categoria 10, quindi se tu sei a un posto dove si trova una quella da 32, categoria 10, a quel prezzo, guarda, non le trovi neanche su eBay, quindi non vorrei che, siccome le ho comprate anch'io, però da eBay, quelle lì, e ci ho dovuto buttare perché sono dei cloni, capito? C'era Samsung, tutta quella cosa, ma la Samsung non l'ho vista neanche di striscio. Aspetta un attimino, ce l'ho sul tablet, ce l'ho, aspetta un attimino, Sì. Hanno il motore di ricerca, si chiama Mini, si chiama. Mini SD, certo, è quella. Però che marca? Il motore di ricerca è Mini. tutto, le mini, le micro. Questa qua c'ha le micro SD, che sono quelle, no, non i mini, micro SD, sono quelle che utilizzano nei telefoni cellulari, quelle molto piccole. È un motore di ricerca, c'ha tutto quanto, orologi, custodie per telefoni, c'ha tante cose, c'ha, hai capito? E si chiama, questa cosa, motore di ricerca è Mini, si chiama. Ah, ho capito. Sì, però guarda, a quel prezzo, siccome io non ho tanti di quei, compro anche dalla Cina, parecchia roba, però di norma i cinesi non ce li hanno, cioè ci hanno cloni, infatti proprio da quelli ho ricevuto due Samsung e tutte e due dopo un po' hanno cessato di vivere, misurate con appositi programmi, non sono originali, capito? Quindi te la danno 8 euro, 4 euro, ma da 32 ora come ora, da 32 giga è impensabile trovare una cosa a quelle cifre, ecco. Che ancora mantengono molto il prezzo perché sono molto richieste. Quindi se ce l'hai e la metti magari su una telecamerina di questa da 4K, accorgi subito che si impalla e non fa né avanti né indietro, perché sono filmati molto molto pesanti. Tu pensa a un filmato solo 10 minuti, fa 10, fa esattamente 1 giga e 2, quindi sono file molto molto pesanti. Quella che ho preso io è per macchina fotografica, quella che ho preso io, 32 giga, eppure ancora sta funzionando. Ma no, non mi ha dato fastidio per niente. Bisogna vedere la marca. Vabbè, io ci vado a prendermi questa antenna prima che ne arrivi qualcosa d'altro, perché sto prendendo nuvole di nuovo, un po' nere. Vediamo un po' cosa succede. Vai, già io siamo già sono qua, me lo metto a caricare questo tablet, il mio sito batteria scarica. Vai, già sono qua, fa una chiamata. Ok, ci sentiamo dopo eventualmente. A dopo, ciao. A dopo. Ma ancora va di Vemma. Chi è che avvai a quella parte? Ancora va di Vemma. Io voglio farmi arrivare stasera, perché sono a cavo e a mali. Rosa, buonasera, Anche a me, mi. Allora siamo al sole. Sì, certo, già ti puoi agitarci, si gira. Chi è che c'è sotto? È tanto da che proscendi. Ciao Marino, tu sei? Ciao Marino, sei in basso, è basso di radio, il segnale sì, una bombola però di radio. Poco, avanti ancora. Guarda in questo passaggio, scavo il tasto, avanti, uno, due, si trova. Ho migliorato un pochettino, ma non molto. Vediamo Tore come ti ascolta. Avanti Tore. Te l'ascolto proprio 00, terra bruppio. È più forte il QRM che Edu. Vai con la tu vai. Ma guarda, non ti ascolto per niente. Sta cosa appena. Proprio 00. Guarda che io ti ascolto, proprio 00. Ma chi? Ma tu hai raccolto? Io non ho raccolto bambina. Passo di radio, si è abbassato ancora di più. Bambina, mi dici tutto come era, perché poco fa ti ascoltavo. Adesso con questo passaggio che hai fatto, 0.0, sei troppo basso. Avanti. Prova adesso, siamo a 1, 2, è così eccessivo. Voglio migliorare ancora. Adesso un pochino di più, questo è il basso. di lui. Ancora a me. E da ancora così. Non l'ha cotto un uomo, qua è troppo alto per lui. Sempre basso questo, sì. E io ti ascolto basso, però ti ascolto adesso. Ma anche l'altra questa bannida, Sempre più basso, Il radio è sempre più basso, il coso è alto, il segnale è alto, però la radio è sempre bassa. Le casse le ho sollevate appena il volume, però lo sento sempre basso. Capito. Ma tu a come lo ascolti, Maria? Ma parlo con il solo da qui. Cos'è solo? Sono la rossa da qui. Sono avanti. Non riesco a capire che sei avanti, non riesco a capire che sei. Invece quel regno che fa da solo. Molto lungo, solo più basso, dai. No, sei alto. Tutto sopra la sala. Ma mi sa che... Mari, mi sa che dovresti cambiare il microfono, dovresti cambiare. Ma è normale, non ce l'hai il microfono. Vado a parucco, capito? Vado a parucco al solo. Cosa fa? Non lo so. Sono lo tutti, non so cosa abbiamo da solo, vai. Andare, che riprenda signor Bacchi. Ehi, hai la radio di cosa di Marino questa che non va bene. Hai cambiato radio, hai Marino. Ma non sto parlando la salotto, Bacchi, avanti, guarda come la scorsa, adesso. Ci sei. Sto usando queste cose di fuoco, ma non lo so. Un lavoro anche più alto ancora di poc'anzi, no? È migliorato, se riesci a capire un po' qualcosa. Ma poco fa era il vero di quanto è vero. Anzi, sto usando il microfono normale, sto usando la pagliette, dai. Ok, avanti, to. Sì, avanti. Andare, va, è migliorato appena, no a 6 di prima, meglio di prima già è. Mi sto coprando, là, non sto scendo la scala, mi sto seduto adesso, dai, avanti, batti, già passo agli oggi. Cosa ho fatto, tutto il mio fiato, tutto ho fatto oggi, Maria. Adesso, guardate, io sarò in mezzo fino a passare. Tutto il giorno cucinando, sono stanco molto. Io ho preso il sole, tutto il giorno cucinando, è stanco molto da mangiare. E noi invece, io ti alleva, certo, signor Bacchi, il virus. Tra i fiori, qualcosa mi viene mai in testa. Tocco molto l'allergia. E sto male, tutto qua, avanti te. Sì, dai, aggiudito, noi io ti alleva. E i bacchisi, e tu cucinelli? Va bene, già eravamo a comprare, comunque l'acqua non è giunta, non è più, abbiamo girato, ascolta fino in grande, e poi in vita, un bel. Se ne è fuggita qualcuna, no? No, già non è fuggita, no, già c'era un altro, c'era mio cognato, era attento, non preoccuparti. Ci ho preso già il bacchino. Adesso non so se il volino sta cucinando stasera. Poi se finito di cucinare, faccio di digerire. Qui fini la villa, deve digerire, capito? Perché se no ci dovrebbe essere introverso stavolta. Sì, sono pesanti, ragazzi, sono pesanti, mi sono pesante, ma mi vengo un po' di tassisti di Silvero, sarò vicino, ma nulla va. Devo fare un po' di sforzi, devo camminare. Sì, domani già venuti inizi a scopare. Sì, domani fino alle 4 iniziamo a scopare, dopo questa. Fino alle 11, già va bene, dai, avanti to. Sì, via da te. E oppure me ne devo bisare 4. Se non fosse 4. Sì, vabbè, so. Ti va a te, non fa a me. Come dico, ormai tu hai già fatto. Adesso, stacca il giovane. Beh, se devo uscire all'otto e mezzo domani a mangiare, ma andate, speriamo che non si avvendeva. Non piove, anche se ha messo l'acqua, non piove, vai. E infatti, aveva messo di pomeriggio l'acqua, ha iniziato a mezzodì a fare va. Sì, ma l'ha fatto un bel buono, vabbè, in campagna non poco e niente, se sei su sua stanza a fare una commissione, perché non mangio due e mezzo e vera l'aria, l'aria. Però un fiume tanto, non più per l'acqua. Aggiungi. A Cagliari invece ne ha fatto più di non che ne ha fatto. In campagna ha fatto un paio di luci e basta. Diciamo era nero, era il cielo era nero, ma come acqua negativa, un paio di goccette e basta. Tanto per sporcare la macchina, avanti, batti. Siamo qua, ma tu non ci sono più molto. E sono sceso in campagna stasera. E di suo pollo, mi sono lasciato trovato. Non ha fatto nulla, vabbè. Ah, però ci ha fatto un bel con la giantotta, ma già non sta negativo, Negativo, qualche luce e basta, avanti, to. Cosa vuoi fare? È passata tutta in ordine dai, è passata. Ha lagato tutto e se ne è andata. Andava a Cagliari invece ne fa una bomba d'eva. Vabbè, Cagliari, so. Quella è Africa, solo Africa, avanti da qui. Tu pure vuoi esagerare, no, che burro gli hanno fatto a mezzo di hanno fatto tempo e tempo arrivi a casa ne farà d'aria ne farà da forse la zona capito sto quasi non vuole fantussi sicuramente non vuole fantussi a chi non vuole campagna non ha fatto nulla quando sono uscito asciutto era asciutto sono mai è rimasto sono arrivato alla colina veloce e fa dall'aria avanti da qui una volta abbiamo avuto parecchio adesso che non volevi fare tutti a chi dice che ha fatto verso le 3 no verso le 4 e mezzo o le 5 non so che una volta qui a Giola non ha fatto nulla in campagna è tutto asciutto ma deve essere che ha fatto a parte in su o ha fatto alle parti alte una volta ha fatto da veloce il monte in zona di alta zona alta si copia anche da qui. Io nei campagni non c'è piovuto, poi c'è piovuto, forse ha avuto paura. No, ha piovuto parecchio qua, ma anche andando verso Pottieri e coso, altre simbati, ha fatto parecchio, che l'aria era da niente, però si offendeva i simbati buoni. Sì, ha fatto a grazie, ha fatto ancora in zona e basta, ma qua in zona nulla, non ha fatto niente. E mi ha chiamato da cognata, ma lei ha fatto un vento, ma vento, che non si può saltare, però acqua negativa. Cosa? sondaggio alla parte di, ho sentito la parte di Consolini, dice che ne farà da all'aria in Chivi, va a Fossi, Reva, se giù di Noghi. Poi a Cosio, vicino a Olbia, ne ha fatto parecchio. Allora, comunque è stata annunciata, si sapeva, eh? È uscito sulla radio, comunque è stato avvertito. Ok, ma ti riprendi il posto di oggi, mi sta chiamando nel posto, avanti. C'è la vecchiaia, quella è la vecchiaia, se non vede il ciapponi nella villa, oh Giulia. E poi, tutti i quattro li confondono, io qui non lo confondo. Vabbè, a me è mezzo ciamelli, da. Ci sentiamo, signor Marchigio, e ciao, signor Marino. Ok, sì, eccola qua, stiamo via, ok, ciao, hai sentito, sono qui in Italia. Ci vediamo. Ci vediamo domani, ciao Bacchia, che anche te, stato in casa. Ci vediamo domani, eh? Ok, anche io chiudo adesso, ciao ciao. Sì, ciao Marino, sono in casa anche tu, ti hanno ricambiato tutto. Ciao Antonio, buona serata, saluto la signora. Buona cena e ci vediamo domani su Concise. Ciao ciao. Ciao Bacchia. Ciao, ciao, ciao.